Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, soprattutto chi sta andando magari al mercato ad acquistare pesce, o chi sta andando al mare stasera vuole mangiare un piatto di pesce, perché parleremo di pesce dimenticato. Molti lo chiamano in diverse maniere, pesce povero, io lo chiamo pesce da crisi, perché quando ci sono questi momenti immediatamente si risollevano certe specie che sono state dimenticate, abbandonate, che nessuno chiede né al mercato né ai ristoranti, e soprattutto anche i ristoratori ne usano ben poco. Ebbene, sono nate una serie di iniziative in proposito che oggi vedremo e ne parleremo, e vorrei cominciare proprio da una di queste, ed è della regione Lombardia, assieme mi sembra alla Sogemi, che è quella che gestisce i mercati generali, e poi credo che ci sia anche qualche provincia dove ci sono laghi. È un'iniziativa per riportare addirittura certi pesci del lago dimenticati proprio al mercato generale. Buongiorno a Giulio De Capitani, assessore all'agricoltura della regione Lombardia. Buongiorno Paolini, grazie dell'invito. Allora, cosa succede? Mi dica un po', qual è questa iniziativa? Perché è curiosa che si sente parlare di pesce siluro, si ricomincia a parlare di questi pesci che veramente sono abbandonati anche nella memoria. Sì, dato chiarisco che sono pesci che sono presenti già un buon numero di anni nei nostri laghi, ma non sono specie autoctone, il siluro, il gardon e il carassio. Tra l'altro creavano anche e creano problemi a quelli che sono i pesci tipici ai nostri laghi, le alborelle, le trote, il pesce persico e quant'altro. Fino a poco tempo fa, prima della stipula di questo accordo, questi pesci venivano pescati appunto nei laghi, sono i laghi della nostra regione, e venivano letteralmente distrutti perché non avevano un mercato, non avevano un appeal sul locale consumatore italiano. Non siamo più abituati, anche per quanto riguarda i pesci d'acqua dolce, alle specie autoctone. Con questo accordo, verificato anche che invece sono pesci che hanno un mercato, in particolare per i cittadini che vivono nella nostra regione, ma che hanno radici diciamo sull'asta del Danubio, abbiamo stretto questo accordo appunto con i pescatori, con le associazioni ittiche dei laghi lombardi, con la Sogemi, che ci ha dato la possibilità di avere questo spazio a disposizione presso il mercato ittico di Milano, coinvolgendo le quattro province che hanno, come ricordava lei, nell'introduzione dei laghi. E quello che era un problema era anche un costo, questa eliminazione diciamo di questi pesci che depauperavano grandemente la nostra fauna ittica, sono diventati un'opportunità di spesa. E tra l'altro chi li ha provati, chi li cucina, forse noi siamo ancora tendenzialmente, come dicevo prima, più portati a quelli che sono le nostre specie autoctone, dà dei giudizi positivi e danno dei costi assolutamente concorrenziali, per non dire quasi minimali, rispetto ad altri pesci che sono più così presenti sulla nostra tavola. Bene, grazie dei capitani. Allora mangeremo, ci sarà qualche cuoco che si inventerà dei piatti sicuramente con questi pesci. La ringrazio, grazie a Giulio dei Capitani, assessore. Sentiamo Luca da Rovigo, un radioascoltatore. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Io volevo segnalarvi il pesce gatto, che è un pesce squisito, prelibato, pescato in Polesina, in tutti i fiumi derivati che confluiscono nel Po, e che è veramente una cucina sopraffina, e lo mangiamo solo noi perché da altre parti d'Italia non ha questo successo gastronomico, mentre è un pesce veramente sottovalutato, ma da un sapore, un pesce d'acqua dolce veramente buono. Grazie. Allora abbiamo con noi Luciano Zazzeri, patron chef del ristorante La Pineta. Voglio chiedere, Luciano, tu che sei pescatore e ristoratore, ma hai mangiato il pesce gatto? Il pesce gatto, sì, ma se ti racconto una storia, ma è troppo lunga ora per spiegarti la ricetta del pesce gatto. Io l'ho mangiato, sì, il pesce gatto fa un po' effetto, fa un po' di schiuma, è un pesce, però assomiglia al nostro pesce prete, ecco, io faccio una somiglianza, perciò si può fare anche un cacciucco con questo pesce, anche un risotto ci viene molto bene. Ecco Luciano, rimani con noi perché ora devo passare la linea alla regia per il traffico, torneremo fra poco, rimanete con noi, continueremo a parlare di pesce dimenticato. Numero verde 800 24 00 24, linea alla regia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pesce povero, pesce dimenticato, oppure come ho detto io, il pesce di periodo di crisi, ma io devo dire che preferisco questo pesce, preferisco la palamita, preferisco il sugarelli, il suro e l'ala lunga. Bene, potrei continuare a iosa. Credo che siano pesci straordinari che a molti, così sentirli, chissà, dice cosa sta raccontando questo, ma in realtà sono straordinari. Voglio anche citare alcuni interventi sul sito Gastronauta. Mi dicono: alici 4 euro al chilo, tonno d'amo, quello giusto intendo 30 euro al chilo, palamita 7 euro al chilo, branzini selvaggi 28 euro al chilo. Insomma, c'è una bella differenza. Sentiamo Aldo dalla provincia di Padova. Buongiorno Aldo. Buongiorno Davide, io sono Aldo, chiamo da Due Carrare. Io con la mia famiglia abbiamo il ristorante Letizia da tanto tempo, da 40 anni, e volevo dire una cosa. Tutto bello, tutto giusto quello che dicete, però quello che dite voi, però a un certo momento si fa fatica a imporre un attimo i piatti della cucina, come si suol dire, povera, perché la gente quando viene a mangiare il pesce vuole mangiare sempre, quasi sempre il pesce, diciamo, come hai detto te per esempio, il tonno, fra il tonno e la palamita c'è una differenza enorme, ma l'altro giorno per esempio ho preso il pesce spatola, che c'era oppure le alici, le sarde, le facciamo in saoro in tutte le maniere, però diciamo che siamo quasi costretti a mettere questi piatti fra un piatto e l'altro, e quasi sempre magari così a darle, ecco, al cliente per farle provare, perché il cliente preferisce l'astice blu mediterraneo, la granseola, le capesante, tutte queste il branzino di amo, giustamente, che costa 30, 35, 40 euro al chilo. Tutti i pesci che al mercato costano. Bene, Aldo, io sono d'accordo che però l'avete abituato, cioè è stato abituato così il consumatore. Secondo me è stato abituato anche per pigrizia di molti ristoratori, i quali sicuramente non vanno mai al mercato, gli arriva tutto bene confezionato e sfilattato a casa, direttamente da società di distribuzione che importano da tutto il mondo, e quindi è molto più facile cucinare in questa maniera. Non so se Luciano Zazzeri è d'accordo con me. Purtroppo sono d'accordo, dico purtroppo perché il mondo si è fatto trasportare, no? Come è successo nel vino, è successo anche nel mangiare. L'aragosta è più facile, però io forse consumerò 5 kg, da 5 a 10 kg di aragosta all'anno nel mio ristorante, io non la sopporto un granché. Che senso ha mangiare l'aragosta quando te puoi dare uno sgombro marinato che la gente fa, ma cos'è questo? Perché si meraviglia, perché è buono, perché di solito lo mangia arrogante, lo mangia forte, lo mangia pieno di sangue e di liquidi. E cosa fa? Lo rifiuta. Se glielo dai buono, lo mangiano. Però devi insistere come dobbiamo fare noi ristoratori a far conoscere le cose alla gente. Perciò io sono d'accordo con te, il tonno costa un'esagerazione, il risultato è un pesce d'impatto, e come i vini moderni è un pesce d'impatto, però in bocca non è lungo. Allora, la palamita ha la sua grande acidità, la sua piacevolezza, la sua gentilezza, è un pesce che costa meno e naturalmente va saputo però lavorare. Cioè, quando ci sono le fave, fai una crema di fave e ci metti sopra la palamita scottata a fatica, la fai cruda, naturalmente devi eseguire in modo perfetto l'abbattimento, ma noi questo si fa a prescindere dalla nuova legge, hanno scoperto l'acqua calda, no? Ma noi si faceva già prima. Perché noi, anche se io sono un piccolo, però frequento i grandi mi avevano già detto il problema dell'anisakis, ma già da 10-12 anni fa. Mauro Leassi è un esempio. Allora, bisogna far capire alla gente che bisogna mangiare anche i pesci poveri, perché poggio e buca fa pari, perché le signore vanno a mangiare gli scampi, le aragoste, e però l'uomo deve mangiare l'acciuga, se no. Certo. I conti non tornano. Ma un po' come la storia del posteriore e dell'anteriore di carni, la stessa cosa, tutti vogliono i tagli pregiati e poi vedono che i prezzi salgono, sì, perché nessuno mangia i tagli, sì, dell'anteriore. Questa è veramente una colpa del però, consumatore. Ti faccio un esempio: noi facciamo la cena della Chianina nel comune di Vibona da 5-6 anni, io e Emanuele della Caravaggia, sì, e si offre tutti gli anni mai una bistecca e mai un filetto, eppure ci richiedono ancora. Se ci chiedono di farla vuol dire che c'è interesse, certo, e si è fatto mangiare anche la milza, perciò questo è qualcosa, vuol dire, no? Naturalmente ci si ingegna a fare uno spiedino di fegato, cuore e polmone indorato nell'uovo, poi col pangrattato, abbattuto e poi fritto. La gente l'ha mangiato senza fare una mossa. Quando gli ho detto che poi era fegato, cuore e polmone, insomma, si è un po' così arricciato, però l'ha mangiato perché era buono. Perciò bisogna un po' svegliarci un pochino, sennò noi non si fa, i conti non tornano e non si farà mai una cosa buona nei nostri lavori, e non trasmettiamo niente di particolare, perché servire uno scampo così bello e buono, lo capisco che è un prodotto eccezionale, però costa 65 euro al chilo. Chiaro. Grazie, grazie a Luciano Zazzeri, grazie Luciano Zazzeri, che è pescatore oltre ad essere anche un grande chef e patron di un ristorante, quindi è importante questo, ci ha dato veramente così uno sguardo interessante. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Giuseppe da Brindisi, un radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno dottor Paolini. Dottor Paolini, volevo fare gentilmente se si potesse fare una trasmissione riguardante la pesca a strascico. Beh, vedremo, Giuseppe, vedremo sulla pesca a strascico. Lei cosa ha? Mi dia un intervento brevissimo, cosa voleva dire? Praticamente ho un'imbarcazione, sono un diportista, mi piace tanto, e per me è una droga la pesca a traina, la pesca con l'esca viva. Ecco, ci abbiamo questi pescherecci che ci hanno danneggiato i fondali, proprio li hanno completamente arati i fondali. Anche questo, anche io non so, la capitaneria di porto, ma perché questa pesca non viene debellata? Non ci devono prendere per i fondelli dicendo che allargano le maglie, perché il sacco, una volta che si è riempito di fango, di detriti, di spazzature, di pesci che poi vengono schiacciati, e le maglie si stringono talmente che il pesce poi non ha più scampo, non ha più. Basta, Giuseppe, guardi, questo è un argomento molto importante. Hanno cercato di ridurre le distanze, di allungare le distanze dalle coste, dalle spiagge, però purtroppo vuol dire che ci sono pochi controlli. Grazie Giuseppe. Ora abbiamo con noi Giovanni Tric, che è presidente della Camera di Commercio di Arezzo, ma soprattutto è vicepresidente dell'Union Camere Toscana, che ha fatto un accordo che riguarda appunto il pesce, soprattutto quello che chiamiamo pesce povero, pesce dimenticato, o addirittura viene chiamato in Toscana pesce da scarto. Poi lo vedremo con due importanti protagonisti di questa iniziativa. Ma Giovanni Tricca, che è anche ristoratore, gli voglio chiedere, ma funziona? I ristoranti hanno aderito a questa iniziativa, Giovanni, oppure così è solo sulla carta? No, qualcuno ha aderito. Intanto io sono d'accordo, Davide, con Luciano, le cose che ha detto sono assolutamente corrette. Io credo qualcuno ha aderito, addirittura a Firenze c'è un ristorante che si chiama Il Pesce Povero, quindi questo già dall'insegna, dall'idea di quello che si vende dentro. Ecco, io credo che sia anche un fatto culturale, peraltro io abito a 200 km dal mare, però pensare che in Italia il pesce che viene venduto viene circa, oltre il 70% è un pesce di importazione, in una nazione circondata dal mare gli vengono i brividi, perché è evidente che è mancata una politica di difesa di tutto quello che il nostro mare sa dare, sa produrre. Ecco, io credo che sia un fatto culturale, sono anche convinto che la crisi, che è anche un'opportunità, serva anche a riscoprire quei valori anche della cucina che abbiamo troppo spesso e troppo in fretta dimenticato alla ricerca di chissà quale proposta gastronomica. E i ristoranti che hanno aderito hanno successo, perché si riscoprono dei sapori che avevamo dimenticato. Ecco, ti voglio chiedere, se uno va in Toscana, molta gente va ora in vacanza in Toscana, c'è una segnalazione dei ristoranti che appunto... C'è una segnalazione, c'è un sito sui ristoranti che hanno aderito, quindi può fare una scelta di questo tipo, che è una scelta per noi fondamentale, perché dietro questa scelta ci sono anche tante cose che il territorio sa offrire, insomma, credo che questo sia significativo. Posso dire che non sono un grandissimo numero, però i ristoranti della costa credo che se l'operazione avrà un successo quest'estate poi si moltiplicheranno. Va bene. Questo vuol dire che anche a casa, anche per la spesa di casa, poi apriremo gli occhi per vedere che cosa il banco del pesce offre. Grazie Tricca. Sentiamo Dario da Roma. Buongiorno Dario. Buongiorno a voi. Prego. Io sono entrato a trasmissione iniziata e non so se c'è un esperto che può rispondere alla mia domanda. Prego. Allora, non so se lei stesso conosce il famoso Corrigone. È conosciutissimo, non conosciuto, conosciutissimo. Ah, ecco, perché ai Castelli Romani c'è questa, come posso dire, questo allevamento, specialmente al lago di Nemi. Sì. che è sovvenzionato dalla Regione Lazio, sì. È quasi una cosa protetta, perché è un pesce particolare. Sì, guardi, anche nei laghi lombardi si trova il coregone, anche molto, molto ambito. Quindi, è buonissimo. Costa anche caro. Grazie Dario da Roma. Bene, abbiamo con noi un ristoratore pesarese, no? Anzi di Fano, vicino Fano, a metà origlia di Fano, Flavio Cerioni della Lanterna, che è un grande conoscitore di pesce, e voglio sentire da lui, che fa sempre delle iniziative importanti anche sul pesce, e sentiamo cosa ne pensa del pesce dimenticato. Buongiorno Flavio. Buongiorno dottore, buongiorno radioascoltatori. Ma cosa penso, dottore, del pesce dimenticato? È stato dimenticato per tanti anni, causa forse c'è tutto un aspetto socio-economico, eccetera eccetera eccetera. Sicuramente in questi ultimi tempi, grazie a voi divulgatori, grazie agli omega 3 che in questi pesci sono, è molto ricco, si è tornato a parlare molto del pesce azzurro, pesce povero, dei pesci che comunemente non venivano più utilizzati in quanto c'era più lavorazione. Oggi, grazie, ripeto, alla divulgazione, grazie anche a una maggiore professionalità. Grazie alla crisi. Grazie anche alla crisi, non volevo dirlo perché tutti ne parlano. Comunque grazie anche alla professionalità dei pescivendoli, che oggi sempre di più fanno in modo di vendere del pesce già pulito, già eviscerato, già spinato, e pesci si cercano sempre a minor prezzo, ecco che è ritornato alla ribalta. Per ultimo, ma non ultimo, dobbiamo anche ringraziare i ristoratori, che ormai in tanti, anche i famosi, hanno riscoperto le bontà di questo pesce azzurro, la sua sapidità. Me ne dica un paio di questi pesci azzurri. Diciamo, io vivo sull'Adriatico, sì. La lice lo troviamo in tutto il Mediterraneo, ma qui ne stiamo facendo una grande pesca. Ma per certi periodi devo dire che il pesce dimenticato è anche un pesce pregiato. Il mese di settembre e ottobre le triglie ne pescano così tanto che diventa al pezzo delle alici. Beh, diciamo che le triglie, insomma, non è che tanto dimenticato, insomma, le non triglie. Sono dimenticate, ma in quel mese ce ne pescano tante e la gente non lo mangia. Ah, bene, ecco, questo è un altro problema. Senta, e altri pesci azzurri e altri pesci dimenticati? Certamente gli sgombri, i suri, i sugherelli. Un altro pesce che non è azzurro, ma che è un po' dimenticato perché ha molte spine, è addirittura la mormora, che in questi periodi se ne prende anche a riva. La razza che è difficile da cucinare. La razza devo dire che a Fano non è dimenticata, perché è uno dei piatti tipici fanesi, la famosa razza con i peperoni, che è tipica proprio del fanese, per cui non c'è mensa familiare in cui almeno una volta a settimana, soprattutto quando sono i peperoni belli freschi, non si faccia la razza con i peperoni. Questo però vale solo, come dire, per la zona di Fano. Bene, grazie a Flavio Cerioni, lì nella regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pesce dimenticato. Addirittura in Toscana è stato anche così, è stato citato come pesce da scarto, quindi sicuramente che nessuno voleva. Speriamo che d'ora in poi la gente cominci a conoscere. Io ho avuto una persona che mi ha insegnato tanti anni fa a preferire questi pesci, lo voglio salutare, perché è un ristorante che oggi è stato da un po' di tempo è chiuso, Vittorio di San Benedetto del Tronto, chissà se mi ascolta, perché veramente diciamo che la palamita, il suro, il sugarello, bene, tutti i pesci che lui cucinava e che io ho imparato a conoscere appunto a San Benedetto del Tronto. E magari, se mi sente, se è in linea, se chiama, io sarei veramente contento di sentirlo e parlare con lui di questo argomento. Bene, torniamo a noi, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ho tantissimi messaggi che tutti parlano, il pesce azzurro, il pesce dimenticato, ma veramente poi lo consumano? Questi io credo che ci siano molti dubbi, e ne voglio subito evitarne un dubbio, che rimanga questo dubbio. C'è una radioascoltatrice, Michela, che scrive: sì, parlate bene di questi pesci, però io non li trovo né al mercato né nei supermercati. Beppe Gallina, stand numero 2 del Banco del Pesce del mercato di Porto Palazzo di Torino, si trovano da lei questi pesci? Ben risentito, buongiorno. Sì, come gli avevo già detto in altro collegamento, da me si trovano, perché oramai da 4-5 anni fanno parte della politica del mio lavoro, sia per i miei clienti sia per quanto riguarda la ristorazione che io servo. Ecco, ma ultimamente si dice che ci sia una ripresa, la gente comincia a chiedere oltre al solito tonno, al branzino, anche perché sono pesci ormai che sono andati alle stelle, forse la crisi, io dico grazie alla crisi in maniera ironica ovviamente, si comincia a chiedere anche di questi pesci che costano molto meno, e così lei lo attesta sul mercato, lo vede sul mercato oppure no? Assolutamente, il consumo fortunatamente negli ultimi 4-5 anni è tornato a salire, anche perché comunque orate e branzini oramai sono un prodotto rovinato perché troppi pesci di allevamento in giro e tutto, quindi chi voleva mangiare del pesce di mare e si fidava della propria pescheria si sta spostando verso questi tipi di articoli, che potrebbero essere in questa stagione delle mostelle, potrebbero essere dei cicirilli, potrebbero essere dei soralli, quindi tutti i pesci che comunque poveri che sono non allevati e sicuramente superiori come qualità rispetto a un pesce allevato. Io lo so che lei lì al mercato che ha molta attività, può rimanere ancora un po' con noi? Sì, ci mancherebbe. Bene, sentiamo Roberto da Verona, buongiorno Roberto. Buongiorno Paolini. Io sono di Verona, però originario di Adria, per lavoro mi reco spesso ad Anzio e ho fatto una piacevole scoperta in un ristorantino dove si spendono 16 euro per mangiare 3 antipasti, un abbondante primo e 3 secondi, con 16 euro, pesce povero, sempre fresco, mai surgelato o congelato, è incredibile. Beato lei che ha trovato un posto così, un po' difficile da trovare in giro per Italia, se lo tenga stretto Roberto. Guardi, fa parte di un gruppo di 2-3 soci che hanno 3 o 4 ristoranti, uno dove si mangia l'aragosta, lume di candela, si spende 100-120 euro, altri da 40 euro e uno da 16 euro. Bene, lei non sarà mica uno dei 3 soci, no? Grazie Roberto. Grazie Roberto, scherzo Roberto, grazie. Bene, abbiamo con noi Silvia Gambaccini, che è biologa marina, nonché rappresenta la cooperativa Plissia di Livorno e la Lega Pesca. Perché ho chiamato lei? Perché è una delle protagoniste di questa operazione in Toscana molto importante, appunto sul pesce dimenticato. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Ci parla di questa iniziativa allora che voi avete messo in atto? Sì, certo, è un progetto che ci è stato finanziato dalla Regione Toscana tramite dei fondi che sono dedicati ai pescatori, è il Fondo Europeo per la Pesca, quindi diciamo che il tutto parte dalla Comunità Europea. Noi abbiamo presentato questo progetto che riguardava la riscoperta di determinate specie, che appunto anche voi avete chiamato pesce dimenticato, che ormai diciamo le persone non conoscono più e quindi sono difficili da commercializzare. Ora devo dire che in Toscana queste specie si trovano, le ricordo un attimo, sono ad esempio il pesce sciabola, detto anche pesce bandiera, i sugarelli che anche voi avete ricordato, il potassolo, ma anche il polpo di sabbia, le razze, i muggini, detti anche cefali, sono tutte specie buonissime, alto valore nutritivo, ma che le persone non conoscono e quindi non acquistano. Silvia, io non ho nominato il pesce spadola, sa perché? Perché è pieno di anisakis e quindi è un pesce che bisogna stare molto attenti. Dunque, diciamo che c'è una regolamentazione, cioè il pesce sciabola appena pescato va eviscerato, quindi i pescatori sono obbligati, proprio per metterlo sul mercato, ad eviscerarlo e così eliminare il problema dell'anisakis. Ci sono anche delle indicazioni su come consumare il pesce. Il pesce, se si consuma crudo, va abbattuto, cioè in casa va tenuto in congelatore perlomeno 72 ore prima di poterlo consumare crudo. Senta Silvia, a chi si possono chiedere queste informazioni? C'è un sito, c'è qualcosa? Perché molti radioascoltatori potrebbero essere interessati. Ma c'è il sito del nostro progetto, che è www.ilpescedimenticato.it, dove possono guardare le informazioni che vogliono. Ecco. Rimanga con noi Silvia, che poi le farò altre domande. Bene, torniamo a Beppe Gallina, così lo liberiamo. Beppe, da dove arriva il pesce, appunto, questo pesce dimenticato, questi diciamo pesci minori, chiamiamoli così, anche se sono, si dice poveri, ma sono ricchi di omega 3. Da dove gli arriva? Dal Tirreno? Io faccio tanto il Tirreno e la Liguria, tutto il Mar Ligure, quindi ricevo tantissimo dal Mar Ligure. Confermo il pesce spatola, come ha detto prima la signora, che è viscerato a bordo, quindi le nuove normative dicono che deve essere viscerato dai pescatori appena pescato. Anche quello è uno dei pesci che noi stiamo cercando di rilanciare. Bene, grazie a Beppe Gallina. Sentiamo Amelio, provincia di Lucca. Buongiorno Amelio. Buongiorno a voi. Senta, io sono a un ristorante a Viareggio e da 35 anni faccio il pesce dimenticato. Bene. Credo anche, senza presunzione, che se si parla di pesce dimenticato è anche merito mio, perché l'abbiamo inventato noi, anche il nome. Bene, qual è il suo locale? Lo dica, non c'è problema. Buon amore a Viareggio. Sì. Senta, quello che io posso dire come esperienza diretta, perché dopo 35 anni me lo posso permettere, e questi alcuni signori che lei ha chiamato mi conoscono. Certo. Il problema qual è? Il pesce è dimenticato perché era un aforismo, in realtà non è mai stato conosciuto, ecco perché non c'è tradizione di cucina di mare, se ci vogliamo dire la verità. Problema è, dico, come faccio una spatola o una mostella o uno stocco che io uso regolarmente, li sto pulendo in questo momento, ma usato come il branzino. La cucina è una questione di conoscenza. Se io per mascherare devo lavorarci sopra per dargli dei sapori, questo è l'assurdo. Quel pesce lì ha dei sapori stupendi, non bisogna farci assolutamente niente, è solo una questione di avere il coraggio del cuoco, lo deve smettere di fare il cuoco, cioè rispettare il prodotto nei tempi e nei modi di cottura. Perciò sia dalla razza alla mostella, alla spatola, alla giolla, a tutti quei famosi pesci che io li ho usati tutti, per esempio il mugine sono 5 tipi, dipende da dove è stato pescato. È proprio veramente una questione di mancanza di conoscenza, ma non solo dalla gente, ma anche da chi lo pesca e chi lo fa. E qui faccio un'affermazione forte, mi creda, malvolentieri. Bene, l'ho detto all'inizio che c'è molta ignoranza dei ristoratori, ma ignoranza, forse indolenza di andare al mercato, indolenza di appunto lavorare su certi pesci, avere il pesce che arriva direttamente a casa sfilettato, come dicevo, già pronto per essere messo in padella o in tegame. Quindi questo è il punto e sono d'accordo con lei su questo. Grazie a Amelio dalla provincia, appunto da Viareggio. Sentiamo Franchino da Brindisi. Buongiorno Franchino. Salve, buongiorno, dottor Paolini. Io volevo intervenire perché qui da noi, in Puglia, a Brindisi appunto, ci sono tanti pesci poveri che non vengono sfruttati dai ristoratori perché preferiscono il pesce bianco, il famoso pesce, il sarago, quello là di mare, dove se lo pagano a 70-80 euro servito. Comunque lei sa che qui in Puglia abbiamo dei grandi ristoratori per quanto riguarda il pesce. Certo. Non facciamo nomi a Polignano. Bene, lo sappiamo Franchino che è, diciamo, una zona anche ricca di pesca e ricca di tradizioni. Giovanni da Roma, buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolini, sono contento che mi hai chiamato. Prego, veloce, 30 secondi. Volevo dire, stavo dicendo, sono detto lì che i soliti ristoranti fanno le solite cose, patate con il rombo, spigole, pezzogna, fritto, è la solita, dove va trova sempre questo. Non ho mai visto un locale, forse ne ho visto uno solo una volta in un posto, che non faccio pubblicità, che facevano dei piattini un po' particolari, dove uno tanto mangia pure a casa, per avere qualche svizzero. Non riesco a capire il motivo per cui non ci sta nessun locale che fa questo. Ce lo stiamo chiedendo anche noi con questa trasmissione, Giovanni da Roma. Grazie. Linea alla regia, torneremo fra poco. Silvia Gambaccini, rimanga con noi ancora un po'. Grazie. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pesce dimenticato. Silvia Gambaccini, visto che lei è anche biologa, abbiamo parlato di Anisakis, le chiedo, un radioascoltatore ci scrive, le lampughe dell'Alto Tirreno che sono buonissime, crude in carpaccio, hanno il problema dell'Anisakis, ma questo credo che sia in tutti i pesci il problema, no? Ci sono alcune specie sì, che vengono più però parassitate dall'Anisakis, anche la lampuga è una di queste, ma si ovvia, come ho detto prima, prendendo la carne, quindi congelandola. L'ultima cosa le volevo chiedere, funziona questo sistema nella ristorazione in Toscana, questo diciamo progetto che avesse messo a punto, funziona? Sì, devo dire che funziona, inizia a funzionare, infatti volevo spezzare una lancia a favore dei ristoranti toscani, soprattutto quelli aderenti a Vetrina Toscana, che ci hanno aiutato a divulgare il pesce dimenticato. Infatti nel nostro progetto abbiamo organizzato delle serate a tema dove i ristoratori cucinavano il pesce fornito dalle nostre cooperative di pesca, quindi era pesce pescato nel Mar Ligure, perché ricordo che il mare della Toscana fino a Piombino è sempre Mar Ligure. proponendo quindi un menù a basso prezzo ai loro clienti, e queste serate devo dire hanno avuto veramente molto successo, tant'è vero che stiamo organizzando una rete di commercializzazione, cioè stiamo cercando di mettere direttamente in contatto il ristoratore con il pescatore che fornisce il pesce. Bene. Questo permette di abbattere ancora di più i costi del prodotto. Bene, grazie Silvia Gambacini, mi spiace che non abbiamo trovato il suo collega di Viareggio Maurizio Campora, che ha partecipato a questo progetto, non risponde, quindi andiamo oltre. Sentiamo Mauro dalla provincia di Verona. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Prego. Volevo segnalare, per esempio, che io frequento, però parlo di un'altra nazione, parlo della Croazia, dell'Istria. Sì. Frequento spesso la costa dell'Istria e da diversi anni ormai andiamo a mangiare le sardine. Bene, cioè, sì. Le sardine appena pescate alla griglia, ma una cosa assolutamente favolosa, benché qualche volta mangiamo pesci pregiati, ok? Mauro, guardi che le sardine appena pescate si mangiano anche in Italia, cioè se uno va in giro, insomma, le trova anche in Italia, oltre che in Croazia, magari in Croazia saranno migliori, però le avrebbe. Vero Maurizio Signorini del ristorante Azzurra di Riccione? Sì, penso proprio di sì. Che si trovano. Ecco, tu hai tante varietà, tante specie di pesce, di solito servi nel tuo menù. Cosa ne pensi di questi pesci minori, chiamiamoli pesci dimenticati, pesci poveri, come vuoi? Ma guarda, per spezzare una lancia, io proprio quest'anno ho fatto una parte nuova fuori di 70 posti, dove si chiama Piazzetta Azzurra, e dove all'interno di questo locale vengono serviti i propri piatti dimenticati. E ogni piatto che viene servito c'è anche la battuta, diciamo, tipo, non so, lo spaghetto con le poveracce fatte però col concentrato di pomodoro, come magari erano piatti che usavano 30 o 40 anni fa, che oggi magari non mangi più perché tutti vogliono il pomodoro fresco, e quindi abbiamo aperto un'area nuova proprio con questo tipo di menù. Senti, le poveracce si chiamavano poveracce perché costavano poco, ora mi dicono che ora i prezzi sono andati alle stelle, però. Sì, ora i prezzi sono andati alle stelle, sì. Senti, però si chiamano sempre poveracce. Oltre le spaghetti alle poveracce, cosa c'è anche? Facciamo pesce azzurro, sardoncini appena pescati, gli zanchetti, delle cozze dei palombari che sono eccezionali, il fritto su quello che troviamo di giornata, quindi è proprio, diciamo, un menù con 20-25 piatti, con prezzi molto più bassi, diciamo, e dove vengono serviti tutti questi piatti qua. È stata una scelta che abbiamo fatto quest'anno, visto il momento qual è, e abbiamo deciso di prendere questa strada. Bene, grazie Maurizio. Maurizio Azzurra, ora come si chiama questo posto, hai detto? Piazzetta Azzurra. Piazzetta Azzurra, grazie, sì. Grazie. Allora grazie. Sentiamo Francesco da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno Paolini, volevo dire due cose. La prima e la seconda sono collegate. Fra i ricettari in vendita, anche quello della Gosetti sulle ricette regionali italiane, sì, ha pochissimo sul pesce povero. Quindi l'invito è a qualcuno che si decida a pubblicare un ricettario del pesce povero, perché io quel poco che so fare l'ho imparato a casa mia. Allora ho Francesco, negli anni, Le do una chiave, perché non esistono. Non esistono perché il pesce, è stato anche accennato prima, il pesce dimenticato o il pesce povero in realtà è sempre stato dimenticato, e quindi è stato poco sui mercati, poco in giro, perché sicuramente i pesci cosiddetti oggi pregiati non costavano come oggi, e il pesce povero era sempre abbandonato come erano abbandonate le frattaglie della carne. Questo è il problema principale, quindi non è mai stato la ribalta. E il motivo, ora probabilmente, come dicevo io, chiamandolo pesce da crisi, visto che sono usciti tanti libri per le ricette povere, le ricette, diciamo, di recupero, avverrà anche questo sugli scarti di pesce. Grazie Francesco. Sentiamo Benigno da Torino. Buongiorno Benigno. Buongiorno a lei. Io sono nativo dell'Abruzzo, ma ho vissuto a Napoli. A Napoli si sono fatti sempre le alici dorate e fritte con un pastetta, e mia zia quando le faceva ogni domenica era una cosa troppo bella. E poi adesso vado a Bergenci, c'è un piccolo ristorantino, non so se posso dire il nome, ma diciamo Gogollo, un Gogollo che sta sulla spiaggia proprio di Bergenci. Ma che pesci fa? guarda, tutto un pesce povero, perché molto spartano. Io sono, mamma mia, c'è la suggeritrice qui. Ma mia, la suggeritrice, dica qualche piatto di qualche pesce. La razza, ho sentito la razza, la signora la razza. Bene, voi la raspa. Voi non siete i proprietari del ristorante, no, vero? No, ho capito. No. Bene. Il proprietario è un pescatore con una pancia grossa quando mi vede. Ingegnere. Vabbè. Grazie Benigno, grazie. Bene, a proposito dei ristoranti, arrivano degli SMS appunto inneggianti ad Amelio, il nostro ristoratore di Viareggio che ha chiamato prima. Vedo che ha molti, molti supporter. Dico, poi c'è anche un altro SMS a cui volevo rispondere. Mi chiede se è vero che il 70% del pescato arriva dall'estero. Ora non so se la percentuale è 70 o se o 68 o 72%. La verità è che arriva tantissimo pesce. Basta andare in giro nelle pescherie dove, e lo ripeto per la centesima volta in tanti anni, purtroppo succede che quella, diciamo, quell'etichetta che mettono non è sufficiente. Non bisogna, oceano indiano, ma sì, ma da dove? Cominciamo a specificare soprattutto queste cose per il pesce, sono fondamentali. L'informazione. Sentiamo Tiglio dalla provincia di Lucca. Buongiorno Tiglio, veloce, ho 30 secondi. Veloce, io vorrei fare un invito ai ristoratori via Reggini di un uso un po' più abbondante e di fare cultura nei confronti dei clienti, degli avventori del pesce povero, perché le assicuro che nonostante quello che dicano, andare a mangiare fuori a Viareggio è un lusso. Bene, grazie a Tiglio, grazie a Tiglio di questa specificazione in chiusura. Bene, abbiamo viaggiato tra il pesce dimenticato. Allora, chi vuole risentire questa trasmissione lo può fare domenica, cioè domani alle 18, e mi può riascoltare alle 11.15 con il riposo del guerriero, e ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 11.05 con replica alle 23.05. Buon pesce dimenticato a tutti!